Italia in controluce, la politica nel tunnel. La politica nel tunnel, forse ne usciamo, ma vediamo un po'. È il giorno chiave per la formazione del nuovo governo guida Pierluigi Bersani, che avrebbe numeri certi ormai alla Camera, questo è scontato, ma ancora tutti da verificare al Senato. L'ultima apertura del Movimento 5 Stelle al PD di questa mattina è sui rimborsi elettorali, perché il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Crimi, si è detto in qualche modo disponibile a parlare se Bersani togliesse i rimborsi elettorali subito a partire dal suo partito. Beh, la scommessa di Bersani si gioca tutta nei prossimi tre giorni. Bisogna mettere in moto la macchina, ha detto, far partire la legislatura sulla base della maggioranza che c'è alla Camera. La novità infatti è che nel pacchetto dell'incarico su sollecitazioni di Napolitano, Bersani ci ha infilato ieri la riforma delle istituzioni e la legge elettorale da discutere e votare senza se e senza ma, così gli ha detto Napolitano, con il PDL e con Silvio Berlusconi. Dentro ci sono al PD ci sono molti mal di pancia e sullo sfondo di questo tentativo, di questa impresa di Bersani, c'è comunque la seconda fase. Nel caso di fallimento di Bersani si andrebbe dritti ad un esecutivo guida Grasso. Voi siete d'accordo ad un'ipotesi di un esecutivo non a guida Bersani bensì a guida Piero Grasso, che è al momento il presidente del Senato? 349-238-6666, il nostro numero per i vostri sms. Allora io mi collego subito con Elisabetta Fiorito. Cosa succede oggi? Succede che intanto il Presidente della Repubblica sta prendendo qualche ora di tempo, probabilmente nel pomeriggio verso le 17 si vocifera qui a Montecitorio, prenderà la sua decisione, ovvero quella di dare un preincarico, diciamo così, a Pierluigi Bersani, un mandato esplorativo sicuramente, per vedere se si può formare il governo. Il rebus è sempre quello da quando ci sono state le elezioni e non cambia. Bersani avrà i numeri al Senato? Ieri il segretario PD, l'abbiamo sentito Daniele, ha parlato di un governo di cambiamento, due sarebbero le ipotesi. Intanto un governo fatto da nomi e volti esterni alla politica, per ripetere un po' il caso Grasso-Boldrini del Senato e della Camera. L'altra cosa però, e qui le voci dicono che è stato Napolitano poi un po' a insistere, è l'accordo con il PDL per fare le riforme. Perché? Perché noi sappiamo che la nostra è una Costituzione rigida, occorrono due terzi del Parlamento per fare le riforme, doppia votazione e anche la riduzione del numero dei parlamentari, non la riduzione degli stipendi, ma la riduzione del numero dei parlamentari, è una riforma istituzionale e quindi c'è bisogno di un grandissimo consenso. Dall'altra parte però il PDL vorrebbe un governissimo, cioè entrare nel governo col PD. Ecco, vogliamo sentire la tua intervista che hai fatto proprio a Daniela Santanchè, sentiamola. Considerato com'è la situazione, è ancora ottimista, io sono un po' più pessimista. Cosa occorre per far ripartire l'economia? La stabilità, un governo e le soluzioni per l'Italia, gli italiani, i lavoratori, le imprese e le famiglie. Il nostro programma elettorale. Senta, Grilli dice che il PIL è meno 1,3%, Grillo invece ha un'idea, quella della decrescita felice. Secondo lei ci può essere la decrescita felice? No, la decrescita felice no. Trovo che tutti noi abbiamo cambiato i nostri comportamenti e quindi tutti consumiamo meno, sia perché ci sono meno soldi, ma sia anche perché è un momento triste del paese. Quindi per lei decrescita vuol dire tristezza, non può essere felice, è uno stimolo. E beh, insomma, le aziende devono produrre, gli occupati devono essere sempre di più, lei tenga conto che 36 giovani su 100 non hanno lavoro. Quindi anche un governo con il PD, basta che il paese vada avanti. A me non interessa il PD o qualcun altro, mi interessa che gli italiani capiscono che c'è una classe dirigente che si mette insieme per risolvere i problemi. Quindi, giusto Elisabetta, come abbiamo sentito, c'è stato un cambio da parte del PDL negli ultimi giorni, da che diciamo, non sembrava chiudere sotto ogni punto di vista, c'è stata questa grande apertura addirittura ad un governo di larghe intese. Sì, loro l'hanno sempre detto, vorrebbero un governo di larghe intese per far ripartire l'economia. Poi ricordiamo anche che si attribuiscono il successo, no, dello sblocco dei debiti delle pubbliche amministrazioni, perché dicono Antonio Tajani a Bruxelles ha lavorato in questo senso. E oggi è intervenuto anche il presidente di Confindustria, che ha detto che però sono delusi per il fatto che il governo divide il rimborso in due anni, perché questa è la spinta che potrebbe servire al nostro paese per far ripartire l'economia. Ma la cosa fondamentale, la politica, quella tradizionale, cioè PD e PDL, hanno anche un altro problema, cioè smontare la bolla Grillo. Perché? E si fa tagliando i costi della politica, come sta facendo il PD, come stanno facendo le istituzioni, ma si fa anche facendo ripartire l'economia, perché l'idea della decrescita felice, che anche Grillo oggi ha ribadito, saremo tutti più poveri ma tutti più felici, non credo, ma questa è una mia opinione personale, che piaccia agli italiani. Va bene, vediamo nelle prossime ore. Grazie Elisabetta Fiodo, abbiamo tantissimi sms. Grasso no grazie, Walter da Vicenza, no grasso si messora, un altro ascoltatore. Poi ci sono sempre un paio di imbecilli che continuano ad imbrattare questo luogo libero, vabbè, ma io tanto non leggerò mai i loro sms, quindi diciamo è tempo vano da parte loro. Grasso è stato bruciato ieri da Travaglio, comunque figuriamoci un magistrato premier, dice Andrea da Bologna. Un ascoltatore invece che non si firma dice: il governo si deve basare sul programma e sulla capacità di mediazione verso il meglio e non sul compromesso. Forse preferirei Grasso subito con un incarico esplorativo, dice Francesca da Pisa. Corrado da Como dice: niente, elezioni subito, PD, PDL a casa, Grillo al governo. Alessandro dice: un governo Grasso forse avrebbe sicuramente più voti al Senato di un governo Bersani. No all'esecutivo del Presidente del Senato Pietro Grasso, dice Marcella da Venezia. Perché non andare in India? In India Bersani è vendola al posto dei Marò. Questi diciamo personaggi, diciamo che sono veramente come dire, creativi nella loro stupidità. Se Grillo volesse veramente governare, chi gli darà i voti se tutti gli altri sono morti? Grasso non avrà mai il loro appoggio, dice Guido da Bergamo. Bersani non ha il numero, l'hanno capito tutti tranne lui, dice Robby. Il bello è che ci crede solo lei nel governo a guida Bersani, non ci crede neppure Bersani stesso, dice Antonio da Pescara. Ma io non credo assolutamente a niente, io faccio giornalista e mi diverto anche molto a fare questo mestiere da molti anni. Sono le 13:42 minuti e 34 secondi, continuano ad arrivare come sempre decine di sms. Non mi pare abbia avuto un grande seguito tra i nostri ascoltatori questa possibilità di realizzare un governo a guida Grasso, non vorrei sbagliarmi, anche se molti comunque dicono che Bersani ovviamente ha una strada complicata, difficile, anzi addirittura quasi impossibile, ma vedremo. Staremo a vedere nelle prossime ore. Oggi comunque è il giorno dell'incarico a Bersani. È tutto, vi ricordo, questa era Italia in controluce, vi ricordo Facebook, la pagina, il gruppo, Twitter, su radio24.it potete riascoltare nuovamente questa e tutte, come tutte le altre puntate, controluce@radio24.it, la nostra email.